Era un giorno che gli aerei voleranno da soli, faranno rotta dove vogliono loro. E più niente li potrà fermare, nessun radar li potrà intercettare. Passeranno i confini del mondo, toccheranno le stelle, poi li vedremo planare sul mare, sul mare. Sfrecceranno sulle nostre teste, così vicini che ci dovremo abbassare. Solo i bambini mettendosi un dito nel naso li potranno guidare. E non sapremo se ridere, se piangere, so soltanto che tutto sarà diverso. Il mondo avrà una grande anima, sarà una grande anima, come un'enorme nube magica. Dal polo fino all'Africa, il mondo avrà una grande anima, sarà una grande anima, come un'enorme nube magica. Dal polo vite come un lampo che nella notte illumina gli alberi in fila. Il nostro cuore è un motore un po' stanco, ma siamo arrivati al 2000. E non dovremmo far finta di vivere, perché vivere sarà ancora possibile. E così sapremo se ridere, se piangere, ci incontreremo. Sarà la grande.